Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. A stare al riparo e poi se si trova un bel fidanzato che ben venga, no. Faccio la badante, mi alzo la mattina, faccio, metto il mio signore a posto, lo metto a letto, poi lo metto un carusino, gli do di mangiare, dopo faccio il mio lavoro in casa. E poi la domenica? La domenica, come sempre, siamo al parco, siamo liberi, siamo al parco, dopo, quando è freddo, andiamo un po' al caldo. Pensavate di stare tranquille? Pensavate che il vostro umarel di casa, una volta passato il momento culminante del climaterio maschile, sarebbe messo con le pantofole, tranquillo, nella poltrona, davanti alla televisione, fare le passeggiatine passo in passetto, e starsene ogni giorno ad aspettare la fine, mesto, giocando a bocce, guardando la sua decadenza giorno dopo giorno, ma soprattutto del tutto privo di quegli stimoli vitali che fanno che un uomo si senta tale? Beh, questo è accaduto per una singolare, per un singolare frangente socio-economico, per degli spostamenti, per la caduta del muro dell'Est, per tutto quello che volete, ma a un certo punto esiste sempre più pressante il problema di uomini che apparentemente per la famiglia ormai sono delle persone in via di dipartita, stanno tutti lì a aspettare che se ne vadano, perché così almeno si spartiscono con le quattro cosette che ha messo insieme in tutta una vita di sacrifici, di privazioni, di mogli scucchione e di lontananza da ogni desiderio e da ogni concupiscenza. Invece no. Cioè no, voi gli affidate la badante, prendete una sana signora che viene da un paese lontano, così la aiutiamo, un paese che ha tanto bisogno, loro si accontentano di poco, dalle loro parti, sapeste, c'hanno i mariti che le picchiano, sono tutti alcolizzati, poverine, ma accorgete che nel giro di qualche mese questa signora improvvisamente si trasforma, la vedete venire in ciabatte, con i pantaloni, con i maglionacci slabbrati, improvvisamente in albero, tacchi a spillo, si veste meglio di voi. Dite, ma che succede? Succede che esiste la possibilità che un uomo recuperi la sua dimensione della felicità, esiste la possibilità che una donna, che in realtà ha passato degli iter esistenziali piuttosto turbinosi e piuttosto difficili, dice, ma scusa, quanto ti resta da campare? Ma ben poco. Ma vuoi campare così come uno straccio buttato in un angolo, con la famiglia che non sta altro a aspettare che schiatti? Io ti illudo gli ultimi anni, gli ultimi mesi, le ultime settimane della tua vita, che tu possa essere ancora un uomo affascinante, bello, ti porto a ballare, ti amo, ti dico che sei bellissimo, ti dico che tu mi trapassi con il tuo belisco di carne, insomma ti riempo di illusioni e tu in cambio mi dai tutto quello che hai, tanto che te ne fai, che c'è già un piede della fossa. Beh, tutto questo sembra un'ipotesi, sembra una mia lucubrazione mattutina, ma è racchiuso in una fantanotizia in cui non ci sono riferimenti concreti e reali per considerarla attendibile al 100%, ma la prendo come case history. Titoli: anziano manager assume un escort come badante e le regala una casa da 700.000 euro. È accaduto a Milano, questo anziano manager, che pare messo piuttosto malconcio, maluccio, gli hanno messo vicino una badante, certo la famiglia poteva sceglierla con un pochino più di oculatezza, gli ha messo vicino una 28enne brasiliana, che pare, almeno da quanto fa capire l'articolo, che oltre ad essere bellissima, di professione facesse l'escort. Ma questo che vuol dire? Comunque l'avrebbe fatto anche se era una vedova, madre di famiglia con 5 figli, se si fosse trovata nell'occasione probabilmente. E si è fatta assumere, prima gli ha chiesto 30.000 euro per andare a trovare i genitori in Brasile, lui naturalmente gliel'ha dati. Poi ha detto, mi serve una casa, lo vorrei al centro di Milano possibilmente, e gliel'ha comperata la casetta da 700.000 euro. I figli, quando hanno capito questo giro, si sono un po' imbufaliti, hanno cominciato a fare azioni legali contro la badante, con esposti, azioni di questo tipo. Lui alla fine gli ha detto, devo licenziarti, mi dispiace, io con te ci stavo anche bene, anche perché ancora mi resta qualcosa. Lei ha chiesto di essere liquidata, l'ha profumatamente liquidata, lui adesso triste guarderà fuori dalla finestra con il rimpianto di ciò che si è perduto. Lei bene o male l'appartamento se lo sarà tenuto, perché mica dormono, se se lo fanno intestare hanno ragione per farselo fare, in modo che rimanga attaccato. Come la pensate? Vi è accaduto qualcosa di simile? Avete esperienze di questo tipo? Donne che vengono da lontano, prendono uomini che non hanno mai messo il naso fuori del loro quartierino, li fanno impazzire, vuol dire donne, ruba famiglie, rovina famiglie, ma in realtà sono donne che pongono un patto che mi sembra commercialmente accettabile. Io ti do l'illusione che tu sia ancora un uomo e tu in cambio mi paghi questa prestazione. 800 24 0024. Tu cosa fa collaboratrice domestica? Però sapeva che sul testamento c'erano, no, state lasciate lettere. Ho saputo quando hanno aperto il testamento. Don Giulio non le ha mai detto no. Non c'è stato né revoca né conferma del provvedimento, si è semplicemente passati da una fase iniziale quasi contenziosa. 800 24 0024, cioè mi scrive un attento Nicoletti, ti sente la Boldrini, ti prende per sessista. Perché sessista? Esprimo un dato di fatto. Guardate, il fenomeno emergente di cui parleremo tra poco, non in questa puntata, è esattamente il contrario. Signore che si trovano in una fase, diciamo, crepuscolare della loro femminilità, che riscoprono improvvisamente nei loro viaggi esotici gagliardi ragazzi che anche con lo stesso meccanismo danno loro l'illusione di essere donne avvenenti, procaci, o perlomeno dà loro la conferma di essere ancora capaci a distribuire piaceri amorosi, e cominciano a importarseli, a portarseli in Italia, come una volta gli idraulici, i commercialisti, gli impiegati, gli avvocati andavano, chissà perché erano tutti appassionati di Cuba, andavano a Cuba e poi tornavano sempre a portarsi dietro una ragazzina, capito? Questa gli spiazzava a casa e poi naturalmente li spolpava fino all'osso. Ma io ci sto, non trovo lo scandalo in questo, trovo comunque qualcosa in cambio diano a queste persone. Beh, in questo caso il servizio avete sentito, dimostra che in realtà la nostalgia del crepuscolo coglie qualsiasi uomo, anche se ha una tonaca. Questo è una eredità molto controversa di un prete, era il parroco di San Sebastiano di Lumezzane in provincia di Brescia, Don Giulia, che aveva lasciato in aprile alla sua badante Valentina, da 12 anni aveva fatto la badante, la sua eredità di 800.000 euro e l'hanno congelata. Dice: come, non si può, il prete, questa è stata vicino per 12 anni. Ammesso e non concesso non ci sia stato fra loro intima d'azione o commercio carnale. Comunque la donna che è più stata vicino a questo prete, a che altro dovrebbe lasciare i suoi averi se una persona le è stata vicino? E naturalmente poi la famiglia è intervenuta. Come la pensate? Vedo un po' titubanti su questo argomento. Vi brucia, vi tocca da vicino, dovete raccontare esperienze così laceranti per voi, per la vostra famiglia. Ma guardate, è una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Noi abbiamo pensato che in realtà una vita di lavoro, una vita di fatiche sia necessaria all'accumulo di un bene materiale, ma questo bene materiale abbiamo capito che non ci dà felicità. E se qualcuno ci offre in articolo mortis, proprio all'ultimo momento, dei brandelli di felicità, perché non dobbiamo comprarcelo? Alberto. Sì, volevo dire che lei ha ragione, sfonda una porta aperta, tanto molti uomini non hanno il coraggio di dire queste cose. Io vivo all'estero, vivo nei paesi dell'est, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Bielorussia, ho girato tutto il mondo, soprattutto i paesi dell'est, e ho trovato tanti miei amici felici, felicissimi. Io ho 61 anni, di avere una compagna giovane di 35, 40 anni, 45, chi se ne frega se poi questa un domani bisogna lasciargli tutto, ma che dobbiamo vivere da vecchietti, disperati? Ma poi scusi, non vorrei dire, ma il regalo lo fa anche questa signora, si accolla una persona che non è certo il massimo della prestanza, mica deve farlo soltanto, non possiamo illuderci che chissà, perché noi abbiamo delle doti nascoste che nessuno ha mai scoperto prima. Ma sa quanti uomini felici io ho visto negli aeroporti della mia età? Da quando avevo 50 anni in poi. Sì, però adesso non parli 60 anni come fosse un'età, anch'io la sua età, non mi sento ancora. Ma siamo vecchi per tante mogli, io e sono ancora sposato, ma mia moglie mi fa fare un po' la mia vita, quindi mi ha lasciato una certa età e sono fortunato, sono emiliano io quindi sono anche gudereccio. Ma perché invece porto tante volte dei miei amici di nascosto, di 60 anni, che sono andati in pensione, hanno lavorato tutta la vita, no, non farti vedere, fanno le cose, ma sai, ma qui chissà come ti diverti. E che cose fanno? E cosa fanno? Si cercano delle fidanzate. E li porta a fare questi tour nei paesi dell'est? Ma niente, loro mi seguono perché io, siccome vivo nei paesi dell'est, mica per l'amor di Dio, mica che li organizzi io. E se ne no, sembra un film di Verdone che era esauritissimo. Un amico lo manda nei paesi dell'est e impazzisce perché trova Disneyland. Ma certo, Disneyland. Perché non vive più. Addirittura ci sono dei miei amici che non mi fanno dormire la notte a me quando sono a casa mia. Io abito in Slovacchia, e quindi loro si alzano di notte, vanno nei locali a ballare, si divertono. Cioè sono allupati come animali, diciamo, attizzati come ricci. Sì, ma non è solo una questione di sesso, cercano proprio di vivere, sono stati repressi tutta la vita, hanno lavorato, hanno i figli, gli hanno lasciato tutto quello che volevano. Beh, le mogli li perseguitano adesso con questa boldrinaggine che c'è. Adesso non veglia sempre mettere in mezzo il presidente, fa il suo mestiere. No, per l'amor di Dio, mi scuso. Le mogli, sì, fa chieda scusa, sennò dopo mi additano. Volevo dire che c'è un po' troppo femminismo. Capisci? Ma non è femminismo, sono scelte, uno fa scelte. Io secondo me un uomo ha sempre possibile. Adesso faccio questa missione, tu diranno, Nicoletti si è trovato la badante. No, non è così. Ho visto la notizia questa mattina, mi ha fatto sorridere. Mi è sembrata una bella notizia primaverile, un uomo che sceglie, ha la rettitudine, la follia, la disastrosa maniera di rovinare una famiglia per il suo piacere. Cosimo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ma rettitudine o follia io non lo so, ma credo che se una persona, anziana o non, perché a 60 anni definirla anziana mi sembra un pochettino così, ma... Sì, vabbè, sì, questa cosa. Appunto. Cioè, dovrei andare a giocare a bocce qua sotto al campetto probabilmente, però sì. Ancora non mi rassegno. Comunque il discorso è, io credo che se si arriva a questo probabilmente, e lo si vede da tanti anziani, la persona sia stata completamente abbandonata dalla famiglia, probabilmente gli affetti non si fanno più sentire tanto, e quindi probabilmente queste persone svolgono anche una funzione sociale, e il prezzo è che la persona anziana come la vogliamo definire, matura, decide di devolvere alla persona che la fa sentire. Diciamola, chiamiamoli così, sensualmente disattivati, così... Le bravissimo, sensualmente disattivate sì. Devono, se vogliono, ma non potrebbe essere una cosa molto più chiara metterlo subito? Noi diciamo diamo amore, come oggi vogliono regolarizzare la prostituzione, che è tutt'altra cosa. Queste non sono prostitute, queste sono persone che per l'immenso, profondo e insondabile senso di generosità che hanno le donne hanno detto di mettere la loro generosità anche a frutto del fatto che comunque devono vivere. Cioè, io ti faccio contento, ti do ancora l'illusione che tu possa essere sensualmente attivato, visto che sei disattivato da una famiglia, da una società. Io ti riattivo, la riattivazione costa, quando lei le staccano la corrente che non paga la bolletta, per farla riattaccare deve pagare la bolletta. Ecco, queste persone pagano una bolletta per la riattivazione del loro contatore sensuale. Melog, cronache meridiane. А сейчас о девушках, которые приезжают сюда в поисках работы. La badante dell'Est facilmente forza il suo ruolo. Spesso è una donna di istruzione superiore. Acquisisce velocemente dati e informazioni sui meccanismi che regolano ogni aspetto finanziario delle nostre famiglie. Quando i parenti si mettono in mezzo tra la generosità dell'assistito e la badante, sono loro stesse a chiedere l'intestazione di fondi assicurativi, molto più discreti e intoccabili da parte dei legittimi eredi. Le cronache pullulano di beghe giudiziarie e di familiari che vorrebbero interdire il padre o il nonno prima che metta a rischio la loro eredità. Scatta inesorabile la molla seduttiva anche per gli sposati, perché queste donne rappresentano situazioni perdute dall'eccitamento erotico alla felicità coniugale. Dopo un menage familiare ormai nella fase di congelamento, nasce il patto sociale basato sullo scambio e le donne slave regalano agli uomini italiani una seconda giovinezza. In cambio, chiedono la solidità economica e sociale. Gli uomini si innamorano, mollano la famiglia, se le sposano e fanno con loro una nuova figliolanza. Io, quando sarò vecchio e decrepito, camminerò verso il mio amato mare finché l'acqua non mi sommerge. Arrivederci a tutti, altro che badanti e lasciti, addie. Mi scrive un ascoltatore, bisogna ci arrivi a piedi fino alla spiaggia, se non ci arrivi c'è una badante che ti spinge la carrozzella e dovrai lasciargli qualcosa in cambio. Stefano, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire su questa cosa, anche che loro facciano un servizio sociale, sono anche d'accordo, però vengono qua e danno quell'illusione effettiva che fanno quel lavoro e lo fanno e basta. Se una persona li mette in regola, sono pagati, perché devono poi approfittare? Ma l'amore può sbocciare anche dopo la marchetta, cioè non è che per dire, lei li mette in regola e poi dopo in realtà si innamorano, che vuol dire? No, loro vengono con lo scopo preciso proprio, devono venire qua. Ma lei perché le è accaduto? È accaduto a lei? È accaduto a mio padre, mettiamo, perché dopo 40 anni di matrimonio con mia madre, mia madre è morta. Non è che gli mancava l'affetto dei figli, che non eravamo vicini. Mica voglio poter dare. Abbiamo trovato una badante a 90 anni, ma cosa deve fare? Che ne sa lei? Sì, che ne so, lo so perché è decrepito, cosa deve fare? E lui si è innamorato a 90 anni di questa? No, si è innamorato, si è illuso, la chiamava compagna, rifregolire. Ah, ma perché lui forse era nostalgico del socialismo reale, per questo, ha visto lei i suoi palpiti giovanili, vabbè, allora gli ha letto il Capitale Maxi russo, che ne so, lui se è questo, ognuno ha i suoi motivi. E quindi cosa è successo? Suo padre è stato rovinato da questa donna? No, rovinato no, perché c'è rimasto con la sua pensione e un piccolo gruzzolo in banca, la maggior parte se l'è fregato lei. È ancora vivo suo padre? Sì. Ma non è contento, si vive bene gli ultimi anni, no? No, io sono contento che lui possa vivere bene, però con lo giusto prezzo, perché ci siamo anche noi figli. Vabbè, una pensioncina in cambio della felicità non mi sembra poco. Non a volere per i suoi soldi, a me non me ne fregherebbe. Ma scusa, ma dovrà mangiare questa donna qualcosa? Quindi in cambio... Ma quando si mangia già lo stipendio, vive là, non spende niente, cioè cosa vogliono di più? Vabbè, ormai vive come se fosse... Mio padre è emigrato 35 anni in Germania. Lei ha ragione, suo padre infatti ha fatto una vita faticosa tutta la vita, è dedicato alla famiglia, alla moglie e ai figli, sarà una persona stimabile. Io stringerei i denti, mio padre è morto, ma sarei stato felice se gli ultimi anni avesse passati così invece che vivere di rabbia dentro casa, sarei stato molto più contento. Lasci che i suoi 90 anni se li goda come vuole, anche se logicamente lo illuderà, ma preferirei morire anch'io nell'illusione che nell'amarezza. Deborah, buongiorno. Buongiorno, salve. Eccomi. Io sono una donna, quindi dovrei essere controcorrente, invece io sono profondamente convinta che facciano bene questi signori a trovarsi delle giovani amanti. La cosa che mi indispone è la cupidigia dei figli nascosta dietro al suo finto affetto. Certo, povero papà, ma che povero... figli affettuosi nel momento in cui loro si divertono e se la spassano. Ma sa che lei non vedo l'ora che accada anche per le donne questo, le giuro, non vedo l'ora che anche le donne, quando vengono considerate nella loro fase post-climaterica ormai degli avanzi donne, buone solo per accudire figli, guardare la casa e andare a fare le orazioni, si trovano dei gagliardi ragazzi che vengono dai paesi più esotici e si buttino tutti su quello, ma finalmente ci sarà un po' di ricambio, non è d'accordo? Pienamente d'accordo. Bene, gliel'auguro anche lei, si guarda intorno. Deborah? Deborah c'è? No. L'ho fatta Carla. Carla, sì, buongiorno. Sì. Io ho un'esperienza di 5 anni con badanti. Situazioni così estreme non me ne sono capitate, però quello che posso dire è che è il contrario, ossia loro vengono qui sicuramente non per dare amore ai nostri genitori, ma sicuramente per prendere qualcosa. Beh, scusi amore, una persona col pannolone come si fa a amare? No, amore, tenerezza. Sai, prima diceva, secondo me, cioè di risvegliarli. Sì, ma è un'illusione, è chiaro, un'illusione. È esattamente come un'infermiera che ti cura le piaghe da decubito, loro ti curano il disattivamento sensuale, come abbiamo detto noi, ti riattivano il contatore. Sì, ma bisogna... Allora, io sono stata sempre vicino a mio padre, loro prima cosa diventano fragili, perché mio padre aveva me, aveva la moglie in casa, quindi però quello che io vedo, e appunto consiglio a tutti i figli che hanno badanti, controllateli. Ma perché controllate? Scusi, ma perché vuol mettere la cintura di castità ai genitori? Facciano quel che vogliono. No, controllateli, nel senso che i badanti qualcosa sicuramente vogliono, non vengono qui per... Non ci credo, ormai... Ma l'abbiamo capito, dato per scontato questo, evidentemente hanno trovato un settore del mercato che ha bisogno di un servizio. Il servizio non è tanto il servizio pratico, concreto, che fanno loro e non fa nessun altro comunque, dell'accudimento fisico, clinico e sanitario, ma dell'accudimento anche emotivo. Si occupano anche dell'emotività. Chiaro, la circonvenzione di incapace è un reato anche difficile da definire, ma se il fine ultimo è che una persona sta meglio, sta più contento e sta felice, stiamo facendo delle leggi per dare l'hashish e la marijuana alle persone che soffrono, ma allora perché non dargli le carezze alla badante se soffrono di solitudine? Questo è il mio punto di vista. Luca? Il mio punto di vista è uguale. Buongiorno a tutti. Ma oggi nessuno dissente, è possibile? No, il problema è che mia mamma è morta da più di un anno, no, non di più. Ma questi discorsi li facevano ancora, mi ricordo, al ristorante, entrambi, che se muori prima tu, io ti dico già, gli diceva mio padre, che io da solo non riesco a stare. Mia madre è uguale, diceva, poi vedo. Però certo, non era una cosa che era molto aveva una bella tecnica per farsi passare l'appetito, dico, bastava magari no, in effetti no, perché poi tra l'altro mio papà è riuscito a far arrivare da Cuba una brava persona che non paga, perché mio papà ha 70 anni, ma se lo vedesse... Quanti anni ha suo padre? 70, ma si mostra 50. Comunque adesso c'è una ragazza cubana e sta bene. Sta bene e mi racconta anche certe cose che... Tipo? Sono quasi invidioso. Cioè? È che ha ripreso la sessualità sua. Pensi questa cosa qui, noi la sottovalutiamo, ma pensi un uomo che ha 70 anni, ormai aveva messo il pisello nel cassetto, chiuso la chiave e buttato via la chiave. Trova uno e te lo risveglia, ma scusate, ma adesso non è che voglio sembrare compulsivo maniaco, ma per un uomo è fondamentale sentirsi ancora attivo. E se c'è riuscita, no, non vale tutta la pensione, tutto quello che ha accumulato nella vita? Secondo me sì. Massimo? No, io dissento. Bene, finalmente, sennò tutti d'accordo, mi preoccupavo. Io dissento perché si sta sottovalutando l'aspetto giuridico. Certo. Nel senso che se è vero che le badanti danno, gratificano dal punto di vista sessuale o che altro, negli ultimi anni di vita, è vero che una moglie ha passato la vita al marito. Lo so, è la verità. Come i figli hanno diritto ad essere sostenuti. Lo so, però purtroppo, ahimè, il mondo è pieno di ingiustizie, di fronte al piacere e alla passione cade anche il senso etico. È triste, fa male più a me che a lei, ma è così. A domani.